Il tema della trasparenza è un tema fondamentale ed è anche dei principi quello più difficile da seguire. Cercherò quindi di essere più chiaro possibile. Trasparenza. L'impegno di trasparenza significa che ciascuno di noi si prende appunto l'impegno di dire ciò che pensa. Cioè che la sua parola corrisponde al suo pensiero. E l'impegno di trasparenza significa anche, di conseguenza, che se ho qualcosa in sospeso con qualcuno, e quindi c'ho un pensiero interno, glielo comunico. Mi prendo la responsabilità di dirlo. L'altro corollario è che se ho un pensiero in testa negativo, starei attivando il fenomeno della fratellanza nera, quello che chiamiamo fratellanza nera. Cioè, stiamo insieme, ci sorridiamo, quindi in questo è un contesto di fratellanza perché condividiamo delle cose forti, importanti. Però noi due, oltre a stare qua, frequentiamo un altro luogo dove ci diciamo delle cose che qui non condividiamo con nessuno. Quindi instauriamo una fratellanza stretta, io e Carla, ma questa volta contro Ivana. Poi magari siamo anche felici se riusciamo a coinvolgere anche lei, anche lui, perché siamo un po' più forti. Questo è il fenomeno della fratellanza nera. Poi esiste il fenomeno della fratellanza grigia, è la posizione di Ponzio Pilato. Io sono nel giusto perché non sto né da una parte né dall'altra. Questa la chiamiamo fratellanza grigia. Poi ce n'è una terza, è una delle più comuni, che è la fratellanza confusa. La fratellanza confusa è alimentata dal dubbio, non lo so, anche questo ovviamente non prende posizione e così via. Allora, l'impegno di trasparenza è un impegno a non praticare né la fratellanza nera, né quella grigia, né quella confusa. La rossa ancora non è stato necessario trovarla, ma non so se in futuro non ci sarà bisogno di trovare anche un'altra.